l'altra Europa. Buon sabato, eccoci qua in diretta con l'altra Europa. Siamo in diretta dalla Fiera del Libro di Torino, padiglione 2, stand Y166, se non erro. Queste sono le coordinate. Non sono solo con me i ragazzi del Convito Nazionale Umberto I di Torino. Ciao e benvenuti, fatevi sentire, che un applauso in più lingue. Sarà una puntata particolare, giocheremo con le parole legate all'Europa, ma cercheremo di farlo come sempre con il nostro taglio, cioè portando esperienze dirette di chi ha avuto la possibilità di frequentare progetti particolari. Andremo a tentare di vedere anche via radio alcuni di questi progetti, e poi c'è la squadra che mi accompagnerà, composta da due colonne, le parole quelle un po' più serie, quelle parole che fanno l'Europa, e ce le racconterà Tonia Mastrobuoni, giornalista della Stampa ed esperta di tematiche europee. Ciao Tonia, e benvenuta. E poi tenteremo anche di ridere con l'Europa, e lo faremo con John Peter Sloan. Ciao John. Hi, how are you? La farai tutta in inglese? No, just how are you? Come on. Giornalista, scrittore, comico, attore, come vuoi essere presentato? Pirla generale. Pirla generale, perfetto. A little bit of everything, you know. Mm-hmm. Ok, dai, parlo italiano, perché lui va in panico se parlo inglese, mi diverto. No, yeah, I do, un insegnante inglese. Tu sei un insegnante inglese? Sì, sì, in diversi modi. Cerco di insegnare gli italiani, perché siccome l'Italia è rimasto un po' dietro, c'era un sondaggio ultimamente, nel, come si dice, un giornale inglese che hanno fatto le media di inglese in Europa, in Italia, Italy was penultimo. In 46 paesi era 45. Meno male che c'è Kazakistan, perché sennò they were the last, you know? So, no, io li insegno perché è adesso un mini missione di svegliare gli italiani, soprattutto adesso molto in mia regione, che l'inglese ha una importanza molto più di quello che pensano, e diventa sempre, sempre più importante. Come dicevo prima, che tutti qua adesso parlano di crisi, ma ci sono 2 milioni di posti di lavoro in Europa per chi parla inglese, at least basic level. Quindi cercando di... perché purtroppo l'italiano, che è la più bella lingua del mondo, secondo me, però tragicamente si parla solo qua, e fuori dall'Italia è inutile. Quindi sto spingendo che l'inglese ha una importanza molto molto di più di quella che ha, and that's what I'm trying to do. So, oltre a insegnare, anche insegnare questa realtà, ti capì? Ho capito. Allora, cerchiamo di capire cosa sta combinando appunto John Peter con la lingua. Tra l'altro, questo libro English in Viaggio, successone clamoroso, appunto, tenti di raccontare l'inglese viaggiando, facendo viaggiare gli italiani, ma di parole straniere sono esperti anche i ragazzi del Convito Nazionale, che noi abbiamo, Umberto Primo, che abbiamo conosciuto tramite Francesco, giusto? Francesco, vieni, eccolo qua, un applauso a Francesco, che... Tu hai vinto un concorso europeo di traduzione, giusto? Esattamente, sì, però dal tedesco, non dall'inglese, mi dispiace. Però lo studiamo l'inglese, non è la mia passione, ma lo studiamo. Okay. Un concorso che funzionava come? Allora, l'avevamo già spiegato, comunque rinfreschiamo la memoria, erano 3.000, grazie. 3.000, 3.000 ragazzi da tutta Europa che traducevano dalle 24, se non erro, lingue ufficiali dell'Unione Europea. Di solito c'è una lingua di partenza, che può essere qualsiasi, e una lingua d'arrivo, che di solito è la lingua madre. Quindi per me è l'italiano, dal tedesco all'italiano. Ci sono state 47 combinazioni di lingue, quindi e c'era un vincitore per ogni nazione, io sono quello italiano. Non me l'aspettavo per niente, comunque, è Bravo. Arrivata. Well done, no? Hai copiato? No, perché nessuno traduceva dal tedesco, quindi okay, impossibile, quindi... decisamente impossibile. Francesco, all'interno della vostra scuola avete attivi tantissimi progetti, tantissime sì. iniziative proprio di scambio culturale, poi magari mi fai un po' da navigatore, andiamo a conoscere un po' di esperienze. Parliamo invece con Tonia, che anche tu, Tonia, conosci diverse lingue, comunque hai fatto della lingua straniera una professione in campo giornalistico, dove le parole hanno un senso ancora maggiore, sono ancora più importanti. Sì, ho avuto la fortuna di avere una madre tedesca, e quindi anch'io parlo tedesco, e secondo me è una lingua fondamentale per capire la crisi, per esempio, perché naturalmente la Germania è un paese importantissimo, ed è fondamentale capire cosa succede, come viene raccontata la narrazione della crisi sulla stampa tedesca, perché è totalmente un mondo a parte, cioè è una crisi completamente diversa quella che viene raccontata sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, sulla Süddeutsche, sui grandi organi, come se ci fosse un'altra Europa lì, ecco. Cioè una crisi che non c'è, una crisi diversa, una crisi che fa meno paura, una crisi che fa più paura. No, è una crisi, i tedeschi hanno paure molto diverse rispetto alle nostre, insomma, e questo si riflette anche nelle politiche della Germania, perché per esempio a noi può sembrare assurdo, ma i tedeschi sono ancora presi da questa paura dell'iperinflazione che deriva dallo shock degli anni 20, insomma quello che poi portò al nazismo. E adesso, negli ultimissimi giorni, la grande notizia è che c'è stata un'apertura in questo senso, perché sappiamo che l'obiettivo della Banca Centrale Europea e che quindi in qualche modo fa le politiche monetarie in questo senso è quello di mantenere l'inflazione al 2%. L'altro ieri c'è stata una cosa clamorosa, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha detto che può essere anche accettabile un'inflazione al 3%. E questo è un'apertura clamorosa, perché ripeto, lì la paura grande è quella dell'iperinflazione. Quindi mentre noi discutiamo di crisi, della necessità, non so, di invece di abbassare i tassi di interesse o comunque di allentare la pressione sul costo del denaro, in Germania hanno già ricominciato a chiedere che venga aumentato il tasso di interesse, perché così si frena l'inflazione. Ma e raccontare queste cose aiuta a fare cultura europea o porta a distanza? Perché se, ecco, uno parla di Europa e subito si parla di inflazione, e, cioè, bisogna partire da lì o bisogna arrivare lì? Ma guarda, io sono nata a Bruxelles, quindi anche questa è una città simbolo in qualche modo. Mio padre è italiano, mia madre era tedesca, e quindi io mi sento, anzitutto, una volta si diceva così, mi sento prima europea e poi italiana o tedesca. E quindi in questo senso io sono imbevuta di questa utopia dell'Europa, però in questo periodo ovviamente sono molto triste. Sei appena tornata dalla Grecia anche? Sì, esattamente. Cioè dove c'è una crisi tu vai, cioè ti piace, sì, un po' godi nelle zone di crisi e vai lì. Per esempio in Grecia guardi solo le banche, parli solo con i ministri o vai anche a parlare con la gente, con le persone? No, io sono andata adesso, però sono andata anche a febbraio. A febbraio c'è stata una grandissima manifestazione dove siamo stati letteralmente gasati in piazza da questi lacrimogeni tremendi, e io ho raccontato tutto via Twitter, per esempio, in quell'occasione lì, 12 febbraio. No, cerchiamo sempre di fare, come dire, l'alto e il basso. E l'ultima volta che sono andata era molto importante invece, e in questo l'esperienza italiana è fondamentale, cioè, come dire, lì la politica è tutto, e quindi questa volta sono andata lì, ho intervistato Papandreou, perché Papandreou, ricorderete, è stato il primo ministro che ha fatto tutte queste misure terribili, poi ha dovuto, insomma, c'è stata una crisi di governo a novembre, lui ha dovuto cedere il suo incarico a Papademos, quindi a un governo tecnico sorretto da una grande coalizione. Lì c'è un grande caos, adesso il caos si sta aggravando, insomma, stiamo andando forse verso nuove elezioni. Sono qui con una delle ragazze del Convito Nazionale Umberto I di Torino, che ha partecipato a un progetto, a quale? Mobilità individuale Comenius. Che sarebbe? Sarebbe, in pratica, sono andata 3 mesi in un paese straniero, che è la Lettonia, a seguire la scuola, sono vissuto in famiglia e a conoscere un po' la cultura di questo paese, che è sconosciuto a tutto il resto dell'Europa. Ma l'hai scelto tu o te l'hanno imposto, o l'hanno sorteggiato? Come? No, diciamo che la nostra scuola ha partecipato a un partenariato Comenius, e quindi siamo affiliati a una scuola polacca e una scuola lettone, quindi le possibilità erano due e a me è capitato di andare in Lettonia. Comunque sono molto contenta di esserci andata. E hai imparato il lettone, immagino? Un pochino, diciamo, loro non sanno tanto l'inglese, quindi... Quindi è colpa loro se tu non hai imparato il lettone? No. Okay. E una frase, che ti ricordo, un suono particolare che ti sei portato a casa in lettone e che è particolarmente significativo? Una parola? Stevi Mill, che sarebbe ti voglio bene. Grazie. Perché mi hanno voluto davvero bene. Okay. Mi hanno voluto davvero bene e io voglio molto bene a loro. Mi sono rimasti un po' nel cuore. Ecco, e al di là dell'immersione in una cultura diversa, al di là delle parole che ti sei portata a casa, come esperienza personale, cosa ti è rimasto? Ti ha cambiato? Sì, devo dire che mi è molto cambiato. È stata un'esperienza da punti di vista diversi, insomma, con pro e contro. Però sono molto contenta di aver partecipato, poiché mi ha aiutato a crescere e a capire un po' meglio chi voglio essere. Bellissimo, grazie davvero e complimenti. John, tu insegni l'inglese, non insegni il lettone, però come sono gli italiani quando vanno all'estero? Cioè, se la cavano comunque... Sappiamo gesticolare, il gesticolare di fatto è una lingua universale che ci salva in ogni occasione. È una cosa interessante, perché l'italiano se la cava in tutte le situazioni tranne con l'inglese, perché comunque c'è una paura, un blocco psicologico, diciamo, che hanno tanti quando tocca di... Perché infatti io, quando sono venuto in Italia, io mi sono innamorato dell'Italia per come comunicano gli italiani. Io ho sempre detto che per me l'italiano è il più grande comunicatore del mondo, perché cioè, comunico con le voci, con i gesti, c'è tutto, it's wonderful, no? Sì. Però in inglese no, e io quando ho cominciato a insegnare erano proprio rigidi, cioè sembrava che aspettavano dentista, non un insegnante d'inglese, come fosse una cosa dolorosa, necessario. E ho indagato questa cosa. No, it was really difficult to teach English to Italians. Quindi a Londra a proposito, visto che siete tutti giovani come me, voglio darvi un consiglio importante: don't go to London. Cioè qua in Italia le mandano tutti i ragazzini a Londra come dei lemming, no? Sì. Cioè a Londra, dove gli inglesi non ci sono quasi, e gli inglesi che ci sono abbastanza ostili, sì. Perché comunque sono completamente invasi da stranieri. Tanti dicono che sono andato a Londra, però gli londinesi, l'italiano non sta molto simpatico ai londinesi. No, gli stranieri in generale, perché è pieno di stranieri. Costa un patrimonio. Cioè, questi sono tutti i genitori poveri italiani che mandano i figli a Londra pensando che imparano inglese. L'italiano già un po' bloccato, prova, vedi il londinese che non lo caga, e cosa succede? Trova altri italiani, che sono milioni, e si diverte. Però i genitori poi tornano... sapendo un po' meno di prima. Vi do un consiglio serio. Allora, se vai in Inghilterra per imparare inglese, vai al nord. Cioè, mia città preferita, per esempio, Liverpool, che lo chiamano il Napoli dell'Inghilterra. Sì. It's wonderful, it's really wonderful. Sono tutti comici, simpatici. Se vai a Liverpool, costa niente. Gli italiani non ci sono, pochi, solo i miei studenti che l'ho consigliato. Costa poco e devi parlare per forza, perché tutti parlano l'inglese. Capito? Questo è importante, because everyone goes to London, it's wrong. Però l'italiano comunque, secondo me, non se le cava molto bene in inglese, no? Perché ha paura di buttarsi. Sì, e quindi è proprio una questione di timidezza. Tonia, vedevo che alzavi il dito. Sì, perché, no, volevo dire una cosa, al di là, a parte io sono andata 16 anni a Brighton, ed è vero che lì... È uguale, sì, it's the same. Brighton, Cambridge, London, yeah, è vero. It's the same. Tutti italiani. No, comunque, secondo me, l'esperienza di questa ragazza dimostra che c'è un luogo comune enorme, no? Questo sui cervelli in fuga, l'allarme, tutti vanno fuori, eccetera. Invece andare fuori è sano. Cioè andare fuori a fare un Erasmus, andare fuori a fare un'esperienza già scolastica all'estero, andare fuori, io sono andata continuamente fuori e devo dire che se oggi sono una persona, come dire, secondo me le mie, ho tantissimi difetti, tra le poche qualità che ho, ecco, sono qualità acquisite soprattutto all'estero, l'esperienza con altre persone che parlano altre lingue, che vengono da altre culture, quindi andare all'estero è un arricchimento. Il problema dell'Italia oggi, secondo me, è che l'Italia non attira più nessuno. E questo è il problema, lo vedi anche nelle statistiche. Nessuno viene a fare il dottorato qui, questo è il problema. E non, il problema non è che la gente vada a fare il dottorato in Inghilterra o che faccia l'Erasmus in Spagna, il problema è che nessuno viene più da noi. Certo, quindi la mobilità assolutamente come valore, se però è unidirezionale, diventa una perdita di risorse. A proposito di mobilità, a proposito di progetti, sono insieme a Laura Fabbri, responsabile progetti innovazione sociale della Direzione Lavoro Sviluppo Fondi UE Smart City del Comune di Torino, perché volevamo fare un piccolo focus su una opportunità che è quella data dal progetto Leonardo. Ciao Laura, benvenuta. Ciao a tutti. Che cos'è il progetto Leonardo? Il progetto Leonardo si inserisce in un programma di apprendimento dell'Unione Europea per la programmazione 2007-2013. Speriamo che ci sarà ancora l'opportunità dopo il 2013. E in particolare si articola in varie misure. C'è la mobilità rivolta a persone in formazione professionale o al termine di un ciclo di istruzione, e c'è la mobilità per persone disponibili sul mercato del lavoro, che è quello che abbiamo utilizzato noi come città di Torino. Poi c'è anche una mobilità per i professionisti nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale. Quindi l'idea è quella proprio di vivere un periodo all'estero di qualche mese, esatto, dove devi fare un'esperienza professionale, quindi è un corrispettivo dell'Erasmus per gli universitari? Sì, è un'alternativa all'Erasmus, offre, noi l'abbiamo definito l'Erasmus dei poveri, cioè i ragazzi che non frequentano l'università e quindi non possono accedere a questa misura, oppur frequentando l'università non hanno potuto permettersi di fare un Erasmus, perché comunque presuppone sempre l'appoggio di una famiglia che li mantenga durante l'Erasmus all'estero. Vicino a te c'è Matteo Urbano, un ragazzo di Torino. Tu hai vissuto questa esperienza col comune? Sì, ho avuto la fortuna di partecipare a questo progetto Leonardo. Sono stato 2 mesi a Siviglia, in cui ho lavorato in un'organizzazione non governativa che si occupava di progetti di cooperazione internazionale in Guatemala, in Congo. Sono assolutamente soddisfatto dell'esperienza che ho fatto. Non so ancora se è spendibile dal punto di vista lavorativo, perché sono tornato da poco, però l'ho già messo sul curricula e spero che sia utile, spendibile. Se uno volesse informazioni, adesso tu ti occupi di Torino, ma credo che anche a livello nazionale ci siano dei punti di riferimento. Allora, esiste in ogni paese dell'Unione Europea, esiste un'agenzia nazionale che cura l'attuazione del progetto Leonardo. In Italia c'è l'ISFOL con sede a Roma, e sul sito programmaleonardo.net LLP dell'ISFOL, che è sempre aggiornato, si possono trovare i bandi e le call per partecipare. Perfetto, grazie davvero Laura. Tra l'altro credo che ci sia anche un ragazzo del Convito che ha avuto la possibilità di... Sì, ciao a tutti, io sono un ex studente in realtà. Nel senso che ti hanno bocciato molte volte e sei ancora lì? No, no, non sono più lì. Ti usano come testimonial. Sì, esatto, perché al termine della maturità, quindi il giorno dopo, sono partito per un Leonardo in Turchia che è durato 3 mesi, poi in realtà mi sono fermato ancora un po'. Aspetta, perché qui la domanda di tutti è perché ti sei fermato? Cioè, perché mi ero trovato molto bene. Ti sei fidanzato? No. Poi in realtà ho avuto anche dei problemi burocratici, quindi insomma è stato complesso fermarsi, sono dovuto tornare, però nel frattempo l'esperienza è stata molto bella, nonostante non, in realtà non fosse attinente al progetto a cui avevo partecipato, insomma fatto domanda, perché ero partito per fare un progetto di turismo sostenibile e poi in realtà per un problema di traduzione, diciamo, del progetto ero finito a fare il cameriere in un villaggio turistico, quindi... Però questo problema ha fatto sì. Mi vincete il premio come migliori traduttori del mondo e poi vabbè. Ma e quindi hai fatto io, il cameriere sostenibile, nel senso che sostenevi il vassoio. No, mi sono sempre lamentato di questa cosa, però ho avuto un grande aiuto dai turchi, per questo anche mi ha un po' aiutato a, diciamo, entrare in contatto con loro e con quello che stava intorno, ecco. Una parola in turco che quella che ancora ti risuona in testa. Una parola che ancora mi risuona in testa. Non dire mancia, che suona male, cioè nel senso non è bello. Una parola. Mi mandi in crisi con una parola. Vuoi dire una frase? È poca, una parola, una frase, un saluto. Non sei stato in Turchia quei 3 mesi. No, non sono stato. Amashim di ben türkçe çok az biliyorum, adesso parlo soltanto più poco turco, perché ovviamente se te lo dimentichi, se non lo pratichi, è nulla. Ti ha cambiato la vita questa esperienza? Assolutamente sì, anche perché era un paese che insomma già mi interessava, quindi direi di sì. John, tu spesso metti la pronuncia ovviamente al centro del tuo lavoro, cioè per conoscere le lingue, che è un po' il filo conduttore di questa puntata, comunque non basta memorizzare dei termini, è la pronuncia che fa la differenza, e noi italiani in questo siamo svantaggiati? No, allora, io prima di tutto scoraggio che qualsiasi italiano cerchi di parlare come un inglese, perché anche io è un po' ridicolo, cioè è così bello l'accento italiano, è solo, in realtà la pronuncia, ci sono certe cose che sono fondamentali, per esempio il cosiddetto macaronico, se c'è un film comico inglese che prendono in giro l'italiano, lo mettono l'R per tutto, perché l'italiano fa questa R, in realtà l'R, prima di tutto, se è l'ultima lettera non c'è, water. Answer, quindi non è waiter o answer, so it's answer waiter, this kind of thing, right? E qui insegno con, per esempio, insegno con dei trucchi, tipo il uomo che sta morendo. Un uomo che sta morendo, no? Perché un uomo che sta male fa allora, è fondamentale in inglese, è veramente un suono importante. Quindi imparare in inglese è learn, no? Giovedì, Thursday. Ovviamente non vai in giro a fare sto esagerando adesso, però è quello il suono. E poi ci sono delle cose, per fortuna gli italiani oramai lo fanno tutti gli stessi errori, no? Però alcuni sono pericolosi. Per esempio in Italia insegnano che l'U inglese è pronunciato come un A, e questo è un disastro, perché non è vero, il U inglese è più vicino a un O. So, divertente, like funny. Perché se pronunci come una A, funny, questa vuol dire genitalia femminile. Sì. E questo è pericoloso. Io una volta che ho fatto Zelig, il giorno dopo ho visto mio amico, ho detto, allora sei venuto a Zelig o no? E lui fa, I had a funny night. Ho detto, allora hai fatto bene non venire. Però, no, but really, e poi l'altra pericoloso è foglia di carta, che in inglese è lungo, sheet, cioè piuttosto fa la mezz'ora, sheet, perché quando fanno, tu sai cosa vuol dire sheet, no? Sì, no, scusa, ma mentre ti guardo e guardo loro, cioè, lo vorreste come professore? No, ma è vero, quante volte hai detto sheet invece di sheet? Io avevo un studente che dove ha lasciato il compito sulla scrivania, sì? È venuto da me e fa, I put the sheet on your table, e io pensavo che era una protesta, no? I said, oh my God, you know, it was really exaggerated. So queste cose sono, and also spiaggia. Allora, possiamo, puoi chiedere a uno di loro come si dice spiaggia in inglese, per favore? Vediamo. Vedo gente alzarsi e andare via. Questo è un genio della traduzione. Vai in secondo fila, Federico. Spiaggia in inglese. Spiaggia in inglese. Sì. Cos'hai detto? Yes. Yes, spiaggia si dice yes. Ah no, ma no, è questo il problema dell'Italia. No, è che non parla italiano. Where is the yes? What? Cioè quando dicono stai bene, dici beach. No. Yes, spiaggia, tu spiaggia. Lo sai. Beach. Ha detto bene, provo un altro. Questi non è che me lo fregano tutti adesso. Beach. Ah, questa è beach. Era la lezione di ieri. No, perché beach è lungo. Se tu dici beach, vuol dire... Non vuol dire quello che pensate voi, questo è un altro mito. Beach non è una donna che fa una professione strano, e vuol dire cagna, e vuol dire anche, non posso dire, S-T-R-O-N-Z-A. Sì. Questa vuol dire, in ogni modo non è carino. Cioè, sheet non vuol dire solo foglia, vuol dire anche lenzuola. Immagina un italiano con problemi di pronuncia che una volta l'ha detto che ha messo la lenzuola sulla spiaggia. Cosa aveva detto? Capito? Ora, noi stiamo ridendo, ma queste sono cose molto pericolose. Nel mondo del lavoro, il più grande gaffe imbarazzante che fanno gli italiani, che io lo elimino subito, non voglio imbarazzarvi, però è una cosa importante, il verbo to come, che ha due significati, come... In italiano non fa ridere questo, aspettalo. Oddio. Allora, ok, ma in italiano si capisce dal contesto. Con inglese, in inglese è la preposizione che cambia, no? Quindi se tu vuoi che una persona vieni in tuo ufficio, c'è movimento, so come to my office, ok? Se tu dici come in my office, io non verrei, personalmente. Infatti, da quando lo insegno io, nelle ditte, tutti si incontrano alla macchina da caffè, non si incontrano più nell'ufficio. Always, you know, movements. So these are, sono più, poche cose, ma più importanti, capito? Essenziali. Grazie, yeah. John, per questa lezione gratuita di inglese per tutti. Le parole hanno importanza, la parola è anche al centro di questo Salone del Libro a Torino. Con me ci sono alcuni dei ragazzi dei BookBlog, salonelibro.it, che è il blog ufficiale del Salone del Libro, raccontano in tempo reale tutto quello che accade qui dentro, ma non solo. Quest'anno siete stati anche protagonisti di un progetto molto più ampio che mette le parole al centro. Ciao! Ciao, io sono Ioana. Sì, quest'anno abbiamo lavorato con lo scrittore Andrea Baiani, che ci ha un po' coordinati. Abbiamo lavorato su una decina di parole, abbiamo coniato 10 termini, nuovi termini che non ci sono sul vocabolario. Ne abbiamo parlato anche con Tullio De Mauro, appunto, che dirige il più grande vocabolario della lingua italiana. Che e ha promesso di inserire queste parole nel nuovo dizionario? Alcune sì, alcune gli sono piaciute molto. E oltre al nostro lavoro qua in Italia, si è affiancato il lavoro di 3 ragazze rumene che lavoravano da Bucarest, che in questo periodo per il salone sono venute qua, ospitate appunto da alcuni di noi. E la parola su cui abbiamo lavorato principalmente con loro è stata per distanza, di cui vi parlerà Donia. Donia, per distanza sarebbe? Ciao, sono Donia. Per distanza è l'allontanamento dal proprio luogo d'origine, che se da un lato implica nuovi modi di vita, dall'altro invece impone una perdita del proprio essere, dalle proprie radici e dalla propria lingua. Quindi una parola che spaventa o una parola che è una opportunità? Un po' tutte e due, perché spaventa un po', perché tu sei obbligato a esiliare dal tuo paese d'origine, ma è anche buona come parola perché ti promette nuovi propositi di vita. Certo, queste 10 parole le avete scelte, credo siano rintracciabili sul sito del Salone. Ricordiamo bookblog.salonelibro.it invece è il blog ufficiale. Vi lascio andare perché credo voi dobbiate andare a lavorare ora, sì. Giusto? Ok, grazie e buona giornata. Rimaniamo però in tema di libri e di progetti europei con Sebastiano Triulsi, coordinatore nazionale del progetto europeo Read It. Ciao Sebastiano. Ciao a tutti. Una bella idea, raccontare i libri attraverso dei video, giusto? Sì, intanto il nostro progetto è un progetto Comenius, cioè finanziato dall'Unione Europea. Vi partecipano 5 paesi come la Turchia, la Romania, la Danimarca, la Scozia e appunto l'Italia. E come succede con la ricerca, noi siamo partiti, noi come università intendo, siamo partiti da una domanda, cioè se produrre, realizzare un book trailer in classe potesse essere una valida strategia per avvicinare gli studenti alla lettura e alla scrittura. Quindi è un progetto europeo, vedo già i ragazzi prendere appunti perché se c'è un concorso, no, non si vince niente, non no. Si vince niente, mi dispiace, ma voi partecipate anche se non si vince, vero? Perfetto. E l'idea è quella di prendere un libro in lingua? Allora, dipende dagli insegnanti che partecipano a questo progetto, perché è un progetto realizzato dalle università e dalle istituzioni di questi paesi, però in comunione con le scuole. Quindi da un lato si formano gli insegnanti attraverso un corso che è un corso online e dall'altro gli insegnanti poi portano le conoscenze acquisite in classe e insieme agli studenti, direi anche scendendo dalla cattedra, realizzano e costruiscono questo book trailer o uno o più book trailer ovviamente, a partire appunto da una lettura del libro, che significa una decostruzione del libro stesso, una discussione in comune sui temi, i personaggi, fino poi a produrre un lavoro creativo e personale. Vuoi dare un sito di riferimento per tutte le informazioni? Il sito è www.readitproject.eu e nulla, vi invito a parteciparvi. Perfetto, grazie davvero. E, tra l'altro mi attacca ai tuoi libri per parlare di libri viventi, di una biblioteca vivente, e lo facciamo con Anna Lodeserto. Ciao Anna. Ciao, ciao. Ti lascio, ti lascio autopresentarti, perché tu lavori per un'associazione molto particolare, molto attiva, molto vicina anche a quello che facciamo con l'altra Europa, perché l'idea è proprio quella di raccontare l'Europa anche da altri punti di vista. Chi siete e cosa combinate? Sì, transnazionale, più che altro il termine che ci definisce, quindi in maniera quasi univoca ma larga tante sfaccettature, appunto europee, quindi oltre lo Stato come singola unità, ma in un discorso veramente europeo, che quindi unisce su temi comuni e unisce attraverso questo festival Trans Europa Network, quindi European Alternatives, l'organizzazione per la quale lavoro come Campaign and Participation Manager, appunto un titolo già in inglese perché è la nostra lingua, quindi il collega accanto sarà contento di ciò. La nostra lingua, anche lavorando anche in Italia, non soltanto in Italia, è assolutamente l'inglese quindi come lingua veicolare chiaramente, e non è detto che sia soltanto l'inglese la lingua del progetto, quindi, che ci interessa in questo momento, che è la Biblioteca Vivente Transnazionale, ovvero una biblioteca realizzata, animata e portata in strada da ragazzi, quindi giovani come quelli che abbiamo con noi oggi, quindi che ringrazio i ragazzi nella scuola di Torino, giovani però di seconde generazioni, quindi che anziché essere nati e cresciuti in un unico paese e scegliere un progetto europeo per andare ad affrontare un'esperienza altra, come abbiamo visto dalle esperienze della Lituania, della Turchia, che hanno fatto i ragazzi in trasmissione oggi, sono figli magari di... appunto i loro genitori provenivano già da altri paesi che per diverse ragioni hanno dovuto affrontare un percorso di migrazione verso un paese europeo, quindi sono già residenti in Europa e portano questa doppia se non tripla cultura, che equivale anche a una doppia tripla lingua, come potranno confermare qui alla mia destra, e hanno molto da raccontare, quindi come già prima nel percorso per distanza tu giustamente hai chiesto, allora è paura o è opportunità? Sicuramente opportunità per arrivare a una biblioteca. Facciela vedere questa biblioteca, sì. come funziona? Funziona che c'è una piazza della città di Bologna, dove in questo momento quindi è tuttora in corso il Trans Europa Festival, una delle due tappe italiane delle due città italiane coinvolte nel percorso del Trans Europa, e questo appunto percorso si svolge in diverse piazze e luoghi della città di forte aggregazione, quindi finora stiamo riscontrando una partecipazione altissima in tutti gli eventi. È nata proprio con, è iniziata il 9 maggio la Festa dell'Europa, tra l'altro, certo, con una camminata in un quartiere a forte integrazione e presenza multietnica, fino a concludersi appunto domenica in piazza Renzi, una piazza centralissima del comune di Bologna, dove i cittadini, i partecipanti, gli interessati o anche semplicemente i visitatori e i curiosi potranno incontrare giovani ragazzi. Questo libro vivente me lo prendo in prestito qualche minuto. Sì, minuto. E lui mi parla della sua storia nella sua lingua. Sì, una narrazione vivente e tra immagine animata, un cinema vivente, teatro, libro, un libro come un ponte sicuramente. Apriamo la parentesi triste, però anche la parentesi seria, perché la parentesi data anche dall'aprire il giornale di oggi, no? Si parla tanto di Europa unita, e poi si parla di questa Grecia che uscirà dall'Europa, tornerà la dracma. Sono solo cose simboliche o sono cose che veramente potranno cambiare il nostro futuro? Cioè andiamo incontro a una unità che si sta già sgretolando prima ancora di... Ma questa sarà la prossima, sarà una settimana decisiva per capire il destino della Grecia e dell'Europa, perché è appena finita una settimana di consultazioni che sono andate male, sappiamo ci sono state elezioni, queste elezioni hanno frammentato il quadro politico, al momento è impossibile mettere su un governo diciamo di unità nazionale, ci proverà la prossima settimana per un'ultimissima volta il Presidente della Repubblica Papoulias, dopodiché potrebbero esserci nuove elezioni. E queste nuove elezioni, pare capire dagli ultimi sondaggi, favorirebbero ancora di più le ali estreme, cioè quelle che si sono opposte con grande, grande forza ai sacrifici imposti alla Grecia in cambio dei grandi salvataggi. Qual è il problema? Che adesso si comincia a parlare seriamente di un'ipotesi di uscita dall'euro. Il dilemma è che questa ipotesi non è scritta nei trattati, cioè nei trattati europei non è previsto che un paese esca dalla moneta unica, e quindi ci sono delle banche d'affari, ci sono degli economisti che cercano di descrivere degli scenari, perché naturalmente l'uscita dall'euro per un paese come la Grecia, il ritorno alla dracma, significherebbe anzitutto un crollo della nuova moneta, perché i mercati l'attaccherebbero. Questa nuova moneta svalutata non varrebbe più nulla, quindi tutti i greci, le imprese, lo stesso Stato che ha naturalmente debiti in euro, il debito pubblico, il greco che ha comprato una casa, il greco che sta pagando le rate di un frigo, no? Tutto questo naturalmente è destinato a... i greci sono destinati a non poter più sostenere queste rate, questi debiti, quindi fallirebbero a catena lo Stato greco, le famiglie greche, le imprese greche, quindi sarebbe una catastrofe totale. Gli scenari più probabili sono quelli di guerra proprio, in cui appunto un popolo perde moltissimo, moltissime cose, dopodiché i tassi di interesse sarebbero alle stelle, perché il mercato naturalmente non perdonerebbe alla Grecia di cancellare il debito, di dire non restituiamo più il debito, quindi i tassi sarebbero a due, tre cifre, cosa che noi non ricordiamo se non dagli anni 70. E poi naturalmente l'inflazione sarebbe enorme, perché la Grecia non produce materie prime, quindi ha bisogno di importare il petrolio. La Grecia vive di trasporti, perché sappiamo che è un arcipelago enorme, sono mille isole, e quindi è uno scenario terribile. E devo dire che è molto pericolosa la retorica di alcuni sedicenti economisti ed economiste, o anche di alcuni politici che trattano questo tema con grande leggerezza, no? Che dicono usciamo dall'euro, torniamo alla lira, torniamo alla dracma, torniamo. Guardate, è uno scenario da guerra, uno scenario terribile, quindi bisogna fare di tutto per scongiurarlo, insomma, no? Adesso anche l'Europa deve mostrare un minimo di comprensione, perché è evidente che i greci sono nel quinto anno di recessione. Cioè vuol dire che l'economia continua a calare da 5 anni, hanno un tasso di disoccupazione giovanile che è sopra il 50%, cioè che, come dire, è assolutamente insostenibile, e quindi continuare a chiedergli sacrifici come gli stiamo chiedendo adesso è impossibile, bisogna un pochino ammorbidire forse. Tonia, ma se tu incontri un greco per strada, lo fermi, gli dici la parola Europa, qual è la prima reazione? Ecco, questo è molto interessante, una domanda molto importante, perché allora i greci, lo dicono anche i sondaggi, vogliono rimanere nell'euro, perché loro si ricordano cos'era la dracma, questa instabilità che ricordiamo anche forse noi un po' più vecchi con la lira, no? Ma lì nella dracma era molto più pesante la situazione. Loro vogliono rimanere nell'Europa, vogliono rimanere nell'euro, ma non ne possono più, perché voi dovete immaginare che se andate nei supermercati greci, cioè, e le cose non è che costino molto meno rispetto a qua. Un litro di latte, un chilo di mele, un chilo di carne, costano più o meno quello che costa qui. Dopodiché i loro stipendi dal 2010 sono stati ridotti, tagliati, prima nel pubblico e adesso anche nel privato, tra il 10 e il 30%. Quindi dovete immaginare persone con 800, 600, 1000 euro al mese che affrontano una vita, il costo della vita come in Italia più o meno, un po' più basso, ma insomma più o meno. È ovvio che loro dopo 4 anni, 3 anni non ce la fanno più, quindi ripeto, c'è questa, e infatti il voto rispecchia questa contraddizione, perché l'unico partito che ha detto usciamo dall'euro è il Partito Comunista Greco, il KKE, ha preso solo 1% in più. Invece chi ha guadagnato tantissimi voti in più, a parte il voto di protesta dei neonazisti, di Chrissi Afghi, ma chi ha guadagnato tantissimi voti in più sono quei partiti di estrema sinistra che hanno fatto una campagna elettorale un po' ambigua, dicendo rimaniamo nell'euro, però rifiutiamo il memorandum, cioè i sacrifici imposti dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale. Quindi insomma è questo un po' il segno, no? di questa campagna elettorale e dei greci. Se tu fermi un greco per strada e gli dici vuoi la dracma, lui al 70-80% ti dice di no. Avete preso appunti? Lunedì interrogazione sulla Grecia, siete favoriti a questo giro. Abbiamo veramente pochissimi minuti e una sintesi veloce di alcuni dei progetti al quale voi ragazzi del convitto Umberto I di Torino avete partecipato. Sì, ciao a tutti, sono Francesco. L'anno scorso con la mia classe abbiamo partecipato a uno stage a Vienna scolastico di 10 giorni. Hai lavorato? Stage nel senso che ti ha fatto lavorare? No, stage nel senso che eravamo accompagnati per tutta la durata da una professoressa austriaca di arte, laureata in architettura, che ci ha accompagnato tutta la settimana a Vienna, l'abbiamo visitata, abbiamo fatto anche progetti molto interessanti. Voi invece? Ciao, sono Lorenzo, noi abbiamo partecipato al Comenius, all'Europroof. È un progetto multilaterale che permette ai giovani di incontrare un'identità europea, ma la cosa più importante è che i progetti sono stati realizzati e esposti dai ragazzi e quindi ormai fanno parte di noi. Per esempio il nostro progetto, il mio, era diventare open-minded, quindi avere un'apertura mentale, e quindi non è solo una parentesi questi progetti, è proprio raggiungere uno stile di vita e un nuovo punto di vista verso il prossimo, quindi sì, sono molto importanti. Credo che insomma hai veramente racchiuso quello che è il cuore di tantissime esperienze. In chiusura vi volevo presentare anche Silvan Fontipeo, ho detto bene? Ciao Silvan. Sì. Tu lavori a un festival studentesco di teatro plurilingue, Lingua in Scena si chiama, che si sta tenendo qui a Torino. Si può imparare la lingua anche attraverso il teatro? Come? Sì. Infatti un progetto dove 5 paesi di d'Europa si troviamo, 5 gruppi, liceo, che hanno lavorato durante un anno sul stesso testo, e ci troviamo, ci fanno vedere le loro produzioni e poi con il regista Marco Alotto facciamo un spettacolo in 3 giorni con tutto e in 5 lingue. Piace? Sì, molto. Quest'anno abbiamo lavorato su Madre Courage. Okay. Di Brest. Tutte le informazioni le troverete anche sul nostro sito. Andiamo a chiudere. Anna, ci vuoi dare veramente un sito internet, un'informazione chiave della vostra manifestazione? Sì, assolutamente. Allora, Transeuropa continua ancora fino al 3 giugno, il festival, vi aspettiamo quindi in 14 città, Amsterdam, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bratislava, Cluj, Londra, Lublino, Parigi, Praga, Sofia, Varsavia e soprattutto a Roma, dove si concluderà al Teatro Valle con l'Agora Transeuropa, ovvero 2 giorni, 30 eventi e performance, vi aspettiamo, quindi 2 e 3 giugno a Teatro Valle a Roma. Grazie davvero a tutti gli ospiti della puntata, a Tonia della Stampa, ad Anna, a voi ragazzi del Convito Nazionale, Umberto I di Torino. John, hai un secondo, come ci vuoi salutare? I don't know, wait, goodbye, English is the future, it's very, very, very important. Se non sai l'inglese, rimani in Italia per forza. And you have to go around, come ha detto lei, giustamente, la lingua ti espande la mente e il viaggio anche. Ha detto Hemingway, non così male, però più vero. Anche questa è l'altra Europa, ci ritroviamo qua, sabato prossimo, grazie.